La novità di oggi è che tutte le agenzie internazionali hanno ricominciato a lavorare, che il UNMIC qui a Pei ha ripreso la propria presenza all'interno degli uffici da dove si erano allontanati da un paio di giorni. In realtà anche l'amministratore locale di UNMIC già da giovedì venerdì girava per la città e non aveva nessun tipo di problema, ha mantenuto contatti con le autorità locali. Per quanto riguarda la presenza, anche ha ricominciato a circolare anche la polizia internazionale, questo già da sabato, mentre invece i giorni precedenti, anche perché qui a Pei la persona che il giovane che era morto era dovuto al appunto era stato ammazzato da una poliziotta americana mentre tentava di entrare in una casa con un coltello eccetera, e quindi si era creata della tensione verso la polizia internazionale. Oggi tutti hanno ricominciato il proprio lavoro ad essere in giro. Per quanto riguarda la KFOR è certamente in una situazione di maggior allarme, come tanto sapete dall'agenzia internazionale il livello di sicurezza è stato elevato, ma c'è una presenza in città ancora della KFOR italiana che circola tranquillamente, quindi direi che anche questi sono elementi di un livello di normalizzazione che sta andando avanti. Quello che probabilmente è successo invece il primo giorno degli incidenti, si sono unite con la protesta per quello che era successo ai tre bambini, e quindi alla protesta una reazione di massa per le notizie che arrivavano, al di là che fossero giuste, che fossero corrette o che fossero errate, cosa su cui non entro assolutamente, ma quello che ha portato a una reazione spontanea di presenza della popolazione in città, e si è unita con la manifestazione dei reduci, che era già programmata dal terzo giorno di manifestazione dei reduci di guerra, che chiedevano al proprio governo, e quindi non individuando dei nemici particolari, chiedevano il riconoscimento di una serie di diritti. E queste due manifestazioni che si sono ovviamente incrociate hanno portato poi a individuare una serie di obiettivi che la popolazione percepiva come obiettivi contro i quali si potesse dimostrare la propria così insoddisfazione, la propria delusione per quello che non sta cambiando in Kosovo, per un futuro incerto, per l'assenza di lavoro, per una grande quantità di problemi che in Kosovo continuano a esserci, una continua non chiarezza per il futuro.